devo comportare come se loro non ci fossero, sempre che loro esistano davvero. Potrebbero essere solo frutto della mia immaginazione. Qualunque cosa sia quella che sta osservando, non è umana e non batte mai le ciglia. Ed è dentro la testa, ed è dentro il cuore, vede dentro di me, dentro di noi, vede in modo chiaro o oscuro. Spero che veda in modo chiaro, perché io non riesco più a vedere dentro di me. Io vedo solo tenebre. Spero per il bene di tutti che gli scanner vedano meglio, perché se lo scanner vede solo in modo oscuro, così come me, allora sono dannato, dannato per sempre. E in questo modo finiremo per morire tutti, conoscendo poco o niente, e su quel poco che conosceremo ci saremo anche sbagliati.